Conto alla rovescia. The clock is counting. Step 148, all stations verify ready for launch. All stations acknowledge. FTS. FTS ready. Prop. Prop ready. AVI. AVI ready. GNC. GNC ready. Ground. Buon pomeriggio ready. Da Gigi Donelli, benvenuti al nuovo appuntamento con Conto alla rovescia. Quello che sentite in sottofondo è di fatto il check, l'ultimo check per dare il via libera al lancio di Falcon 9, avvenuto questa settimana. Falcon 9 che portava sulla testa del razzo la navicella Dragon, un vero e proprio balzo in avanti nel futuro attraverso questa compagnia SpaceX basata in California, creata dal miliardario di internet Elon Musk, che ha compiuto con grande successo questa missione test. Che cosa vuol dire test? Test si trattava di dimostrare di essere in grado di mandare una navicella spaziale in orbita due volte intorno alla Terra e soprattutto di riportarla a Terra, in questo caso in realtà in mare. Siamo ritornati in qualche modo al vecchio familiare sistema dell'amaraggio cui gli americani hanno fatto ricorso per tanti anni. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Complimenti dunque a SpaceX, seguiremo l'avventura di questo progetto privato, ma insomma privato fino a un certo punto, visto che è finanziato dalla NASA, che è di fatto sviluppato all'interno della struttura. Intanto attende purtroppo ancora lo Shuttle Discovery, doveva partire all'inizio del mese di novembre, continuano i problemi, non partirà prima del 3 febbraio 2011, con una finestra di volo che sarà aperta appunto dal 3 febbraio al 10 febbraio. Evidentemente slitta tutta l'operatività delle missioni Shuttle, e a questo proposito vi segnalo slitta anche la missione cui partecipa l'italiano Vittori, che appunto doveva partire in febbraio, evidentemente non partirà almeno prima di aprile. Intanto in Russia siamo alla vigilia della missione della Soyuz con il nostro Paolo Nespoli. Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, primo italiano che compirà una missione di lungo periodo in orbita. Il lancio è previsto per mercoledì 15 dicembre, quindi ormai ci siamo, dalla base russa di Baikonur, e naturalmente ve ne daremo conto all'interno dei nostri giornali radio. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto della serie di addestramenti rivolti ad ampliare la conoscenza tua di te stesso e a avere confidenza in quelle che sono le capacità dell'equipaggio. Se c'è ansia, non è sicuramente nel lancio sulla stazione, ma è più sul fatto che sono cosciente del fatto che questa è una missione di 6 mesi. Mi sento che mi viene dato un compito molto importante. È successo durante l'addestramento che per disattenzione o per quello che è, non sono riuscito a portare a termine un esperimento o ho spaccato qualcosa. E la paura più grossa è quella di arrivare in orbita e di rompere un esperimento che è costato anni e anni di lavoro a scienziati, costato tutta una serie di soldi e cose. Se c'è un po' di attenzione di cose è questa. I rappresentanti dei 18 paesi membri dell'ESA hanno fatto questa settimana il punto sullo stato di avanzamento dei progetti di navigazione satellitare. La riunione si è svolta a Bari, al centro dell'attenzione i progetti naturalmente Galileo ed EGNOS. E sempre durante la settimana si è svolto presso il Pontificio Consiglio della Cultura la prima lettura del progetto Science, Theology and Ontological Quest sulle origini dell'universo e sul ruolo dell'uomo nel cosmo. L'evento, sostenuto dall'Asia, ha visto impegnato come relatore il cosmologo inglese Barrow, insignito del Templeton Prize nel 96, presenti anche il cardinale Gianfranco Ravasi e padre José Funes, direttore della Specola Vaticana. Bene, una curiosità in conclusione: quest'anno sarà possibile mandare gli auguri di Natale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale attraverso il sito dell'Agenzia Spaziale Europea e quello della NASA. Sarà magari l'occasione per fare gli auguri al nostro Paolo Nespoli. Con questo è davvero tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. 3, 2, 1. We have ignition.